5. Chiamai la mia cameriera Katia, una buona donna, brutta oltre ogni dire, scelta perciò con entusiasmo da me, e le dissi piangendo di svestirmi che andavo a letto. Mentre mi slacciava la veste, la udivo brontolare: se fossi io non andrei a letto, se fossi io metterei in testa la tiara di brillanti, metterei il vestito di tulle rosso scollato e poi con una buona bottiglia di vitriolo in tasca andrei a vedere un po' che cosa c'è di nuovo. Tu andresti? Lo credo, disse ella, e i piccoli occhi strabici lanciavano a destra e a sinistra fieri lampi divergenti di indignazione. Perché no? Perché no, infatti? Non avevo io il diritto di seguire Vassili? Non glielo avevo io solennemente promesso un anno fa nella piccola chiesa della steppa, seguirlo? Con quale trepida letizia avevo allora pronunciato dietro al sacerdote quella parola di tenace e di docilità, che fosse valido anche per il restaurant dell'Ermitage? Andrei, dissi con voce tremula, ma tutte le donne si mettono rossetto e cipria e io non ne ho. Ma avete 18 anni, signora. Misi la veste scollata di tulle rosso, misi le calze e le scarpette color fuoco, misi sul capo la tiara di brillanti e rubini e m'avvolsi tutta in una sciarpa rossa ad arabeschi d'oro che sembrava una serpe di fiamme. Ahimè, Katia, sospirai guardandomi nello specchio. Cosa direbbe la mamma? Che cosa sembro? Sembrate un fiammifero acceso, disse Katia. Volli che venisse con me nella troica. Io battevo i denti per la paura, lei pregava. E giungemmo davanti alla porta risplendente del restaurant. Oddio, Katia, mio marito cosa dirà? Dirà che siete bella. Come osai varcare quella soglia sfolgorante di luci, come salii quelle scale dai tappeti rossi, preceduta e seguita da inchini, sorrisi e mormorii. Al sommo dello scalone, davanti ad una grande porta bianca e oro, mi fermai. Il cuore mi martellava, non potevo respirare. Udivo da dentro la musica degli zigani e voci di donne e risate d'uomini e un tintinnio di cristalli. Chiamate, balbettai al curvilineare maître d'hôtel. Chiamate. Poi, pensando a Vassili, il coraggio mi mancò. Chiamate Sua Altezza il Granduca d'Oldenburgo. Aggrappata alla ringhiera, l'aspettai. Dalla porta, aperta e subito rinchiusa, una vampata di suoni mi lambì come una fiamma. Quasi subito la porta si riaprì e comparve il Granduca, frettoloso, col volto ancora atteggiato alle recenti risa. Mi squadrò, stupito, non riconoscendomi. In che posso servire? Ma per Dio! I suoi occhi si dilatarono in un immenso stupore. Ma è l'angelo del Botticelli! Io dissi sì, e avevo voglia di piangere. Ma venite, venite! Esclamò estatico il gentiluomo e presami per un braccio mi condusse verso la porta. Un cameriere la spalancò. Ebbi l'abbagliante visione di una tavola scintillante di posate d'oro, di femmine e di fiori. Tarnowski! Gridò il Granduca fermo sulla soglia. Fortunato tra i mortali! Ecco la più trionfale delle tue conquiste! Vasili era balzato in piedi e mi fissava con occhi stupefatti e increduli. Tutti tacevano. Io mi sentivo morire. Vasili mi mosse incontro, mi prese la mano rudemente, chiudendola tutta nella sua stretta. Di ferro! Ma tu sei pazza! Disse. Poi mi guardò da capo a piedi. Non con lo sguardo di marito, neppure con lo sguardo d'amante, ma col freddo, analizzante, deliberato sguardo del perfetto connoisseur. Vieni, disse finalmente, traendomi verso gli altri che ridevano chiassosamente. Io ti ho descritta agli amici come un fiocco di neve, non lo sei? E rise. Vieni, incendiatrice. Da allora in poi mio marito mi volle sempre con sé. Trascinò la mia ignara adolescenza di ritrovo in ritrovo a cene, gozzoviglie, baldorie, orge, compiacendosi dei miei successi, divertendosi delle mie ingenuità. La mia innocenza fu travolta nel maelstrom della sua vita libertina. Egli mi fece guardare nel fondo di tutte le depravazioni, baciando allora con maggior fervore i miei occhi spauriti e contaminati. Egli profferse alle mie labbra tutte le coppe dell'infamia, trovando a sua volta dolce il bere le lacrime della mia oltraggiata gioventù. Egli fu invero un maestro appassionato e temibile, un mentore del male, un apostolo dell'impurità. Oh, se me, trepida sul limitare della fanciullezza, una mano tenera e forte avesse tratta in salvo, non sarei io come le altre donne, le felici donne che passano fronte alta nel sole, sacre e spietate nella loro inviolata purità. Ma, uscita con tardo e riluttante passo dalla prolungata infanzia, mille mani crudeli mi spinsero verso l'abisso. Oh, bianca strada dell'innocenza, che non ha ritorno. Oh, delicato lume della purità che spento non si riaccende più. Non ho pianto io per voi, quando prima dei 20 anni vi ho perdute. Triste e gelosa come un'esiliata, guardavo le mie coetanee passare gaie e sicure a fianco delle loro madri, arrossendo per una parola ardita o uno sguardo ammiratore, e io mi sentivo indegna di baciare loro il lembo della veste. Ma venne, vittoriosa e redentrice, la maternità. Umile e superba portai il piccolo fiore umano, palpitante in me. Ad ogni battito di vita mi sentivo mancare dalla gioia pura della mia riconsacrata femminilità. Vasili poteva tradirmi, sfuggirmi, abbandonarmi. Io non me ne avvedevo. Ero presso a mia madre e nel tenero cerchio delle sue braccia trovava rifugio la mia estasi umile ed immensa. E mi domandavo: come mai è possibile che vi siano donne che rifuggano da questa felicità? Che durante questi mesi saturi di possente vita piangano e soffrano? Io mi sentivo come una pianta giovane in primavera, spinta da una potente forza alla fioritura. Mi pareva d'essere più donna di tutte le donne. Tutta quell'epoca benedetta fu per me una grandiosa ascensione al piacere. Tutto mi piacque, mi estasiò dalla palpitante attesa fino al feroce ultimo compimento. Quando la fragile creatura, mio figlio, mi posò tra le braccia, pensai che bastava lui solo a riempire tutta la mia vita. Al mio petto egli cresceva meraviglioso, tutti i giorni più biondo, più deliziante, come un fiore di qualche fantastica leggenda lunare. Oh, le mani piccole sulla mia faccia, e i capriccetti e i piccoli gridi di tortorella incollerita e le fossette dei gomiti e l'assurda lotta della cuffietta sempre di traverso e le lunghe vesti dove battono i piedini intolleranti. Tutti i giorni la mamma ed io gli trovavamo dei nomi nuovi, dei nomi di fiore, di animaletto, nomi puerili fatti di suoni dolci e insensati. Io non avevo più pensieri. Non avevo più desideri, troneggiavo, pallida e pura, nel bianco paradiso della maternità. 6. Ma ora i miei pensieri si smarriscono, i miei ricordi si confondono, vedo mia madre col mio bambino in braccio ed io, in abito da viaggio, piangente, disperata, che mi avviticchio a loro e non voglio lasciarli, non voglio partire. Ma Vasili si impazienta, Vasili si irrita, è stanco di fare il papà, stanco di vedermi non più l'incendiatrice, ma blanda come una Madonnina nella mia candida beatitudine materna. Vasili si è messo in testa che vuol cantare, non solo vuole studiare il canto, si andrà in Italia, a Milano, a studiare solfeggi e gorgheggi, e io devo andare con lui. Ma il bambino, lasciami condurre il bambino. No. Vasili non vuole bambini, non vuole seccature, non vuole impicci. Già ci rimorchiamo dietro 8 bauli, dice lui cinico. E così partiamo per l'Italia. L'Italia, la meta sospirata dei miei sogni di fanciullezza. E a Milano Vasili canta, e io lo vedo sempre con la bella bocca aperta e tonda, ma a me serpeggia un veleno nel sangue e mi ammalo. Ed ora i miei pensieri si smarriscono, i miei ricordi si confondono, danzano una ridda mostruosa e grottesca nel mio cervello. Vedo dei volti lividi, degli occhi allucinati, degli adolescenti briachi con una corda al collo penzolanti dalla soffitta, dei fanciulli col viso gonfio e verdognolo in mezzo a tutto Vasili che canta. Canta dei solfeggi, dei gorgheggi con la bocca tonda e aperta, e frattanto veggo dei ragni bianchi che corrono su una trapunta rossa. Sono le mie mani e mi fanno paura. Ho il tifo. E Vasili canta. Vasili, perché canti? Non cantare, non cantare! No, no, non canto, cara, te lo immagini. Deliri, hai la febbre. Sta buona, sta buona. Vasili, dov'è il mio bambino? E a casa, a Kiev, con la nonna. La buona nonna ha tanta cura di lui. E noi perché non siamo con lui? Dove siamo? Siamo a Pegli, cara. Perché Perché? Perché? Dov'è Pegli? Cosa facciamo a Pegli? Ma sai bene, siamo venuti in Italia perché io volevo cantare. Ecco, tu volevi cantare. Ma perché voler cantare quando il bambino piange? Il bambino è così piccolo. Perché mi hai portata via da lui? Tu canti, canti forte, che io non odo piangere il mio bambino. Non cantare. Ma mentre parlo vedo che Vasile ha già riaperto la bocca tonda e canta, canta, e i ragni bianchi corrono sulla coltre rossa e mi vengono vicino alla faccia. E i ragni bianchi sono le mie mani. Urlo ed urlo perché le portino via, ma il bambino piange e Vasile canta e nessuno ode. Poi cado in fondo a un pozzo, mi sento cadere, cadere, poi con una gran scossa tocco il fondo e lì giaccio immobile, sprofondata nel buio. Quando apro gli occhi, c'è una gran luce, le finestre sono aperte ed entra il sole, so che al di fuori c'è il mare. Al mio letto siede un dottore con la barba grigia e mi tiene il polso. Sotto la leggera pressione delle sue dita, il mio polso si calma, si acqueta e vedo la testa del dottore muoversi a piccole scosse, contando i battiti del mio polso. 65 pulsazioni, ma brava, ma brava! E il dottore mi carezza il mento. Ma benissimo, siamo belle guarite. Allora sento qualcuno che piange piano e so che è mia madre. Voglio voltarmi a sorriderle, ma la mia testa non si muove. Pare una palla di piombo affondata nel mio guanciale. Subito dopo, o sono passati degli anni, sento qualcuno dire: Ecco il professore. Ed è ancora quello stesso dottore con la barba grigia che entra e mi sorride. Prima di sedere accanto al letto, chiede alla mamma: Non ha ancora domandato del figlio? E la mamma scuote la testa e si porta il fazzoletto agli occhi. Egli allora siede al mio capezzale, mi accarezza la fronte, mi parla di un bambino. Ripete tante volte un nome che forse è Tioca. Tioca? Chi è Tioca? Io guardo muovere la sua barba e non so che cosa dica. La palla di piombo che è sul mio guanciale rotola di qua e di là e mi pesa e mi fa male. Mia madre piange e dice: Oh professore, non la lasci morire, non la lasci morire. Tornano i ragni bianchi a correre sulla coltre ed io ricado in fondo al pozzo. 7. Durante quanti mesi fui ammalata? Non lo so. Vasili, irrequieto e ozioso, rimorchiò me e le mie medicine e le mie sofferenze da Pegli a Genova e da Genova a Firenze. Pareva avesse dimenticato di avere una patria, pareva avesse dimenticato di avere un figlio. Le nostre stanze all'albergo erano sempre gaie di sole e del cicaleccio mondano di una vezzosa triade di dame russe, la principessa Dubinskaya, sua sorella, la Wojacek, e la bionda Olga Kralberg, che ogni giorno ci venivano a trovare. Ma io mi sentivo sola e sperduta nel mondo. Le mie braccia vuote si tendevano verso Vasili che, ahimè, mi tradiva con chiunque, con tutte. Bisogna riconquistarlo, mi disse Olga Kralberg, che in un giorno non lontano doveva suicidarsi per lui. Un uomo, specialmente se ha un marito, dopo un po' di tempo va sempre riconquistato. È facile dirlo, ribattei io, triste e sconfortata. A conquistare un uomo ci vuol poco, ma a riconquistarlo si fa in questo modo, sentenziò la deliziosa biondina, rannicchiandosi nell'ampia poltrona col gesto di un uccelletto che si accoccola nel nido. Prima di tutto si prende per modello l'amante preferita. Ci si serve dello stesso profumo, della stessa sarta. Chi è l'amante preferita di tuo marito? Chiese improvvisamente con un astuto scintillio negli occhi. Non te lo chiedo che per aiutarti nelle tattiche della riconquista. E come vuoi che lo sappia io? Sospirai profondamente depressa. Ne ha tali e tante. Olga si morse le labbra. Chi sarebbero? Their name is Legion. Se dovessi fartene una lista, son così tante. Sì, fammela, esclamò Olga tetra e veemente. E in quel punto entrò Vasili, gaio, baldo con un fiore all'occhiello. Hai una matita, Vasili? Gli chiesi quando ci ebbe salutate. Sì, perché? Chiese distrattamente andando verso la scrivania. Per scrivere la lista delle tue amanti, risposi sorridendo un sospiro. Vasili prese sullo scrittoio una matita nuova. L'aguzzò col temperino, accuratamente, e me la porse. Ecco, bada che avrai bisogno di molto tempo, disse, e di molte matite. Poi mi pizzicò l'orecchio, gettò un bacio ad Olga e ci lasciò. Rimaste sole ci guardammo ridendo, ma eravamo pallide tutte e due. «Comincia la lista», disse Olga, che parve d'un tratto smagrita col collo lungo. Aveva l'aria di un uccelletto spennato. «Devo mettere anche quelle di cui non sono certa?» chiesi con la punta della matita in bocca. «No, no, per carità, solo quelle di cui sei certissima!» E cominciai. «La baronessa Tieman, Tatiana Ksionina, Dasha Boldinskaya, Giulia Terleskaya, un'attrice del teatro di Kiev, una zigan, la seconda cameriera di mia madre, una contadina di Otrada, un'altra contadina di Otrada, la mia cameriera, la nutrice di Tioka, una signorina di Poltava, la principessa Dubinskaya, una sconosciuta nel treno di Odessa, la cameriera Tatiana, Nina Popova, Nadina Grigorievskaya, la bon Tania, Pandaleona Kirkorova, la signora Likoshina, Anna Puch, la sorella di Anna Puch, la zia di Anna Puch, una certa Wanda, una signora francese nel treno di Berlino, un'attrice dell'Olimpia a Kiev, la contessa Saltikova, la figlia del nostro cocchiere, la signora Königsberg, la nipote di Olga Stolice, Olga Stolice, una signora norvegese, un'attrice italiana Ayeres, una certa Titina, Nidia Verbena, la signora Schaub, Leontin, una governante tedesca, una baronessa boema, la signora Vassiljeva, la sorella della signora Vassiljeva, la cugina della signora Vassiljeva. A questo punto Olga mi fermò. «Basta!» disse. «Basta! Hai un poco di cognac?» Quando si sentì meglio, le dissi: «Vedi che è perfettamente inutile che io tenti di servirmi degli stessi profumi, delle stesse sarte.» «Taci, taci, non parliamone», disse Olga facendosi vento con la lista. E tutta sconvolta mi lasciò. Quando la rividi all'indomani era molto nervosa, ma io ricondussi il discorso sull'argomento che mi stava a cuore, la riconquista di Vasili. «So che non è una cosa facile», cominciai. «Oh no!» esclamò lei. «Veramente no, ma stanotte ho pensato che forse tutte quelle amanti... Ebbene, tu ami molto tuo marito, forse hai l'ossessione che tutte le donne che gli incontra siano innamorate di lui. Quella lista, vedi, mi pare una cosa da ossessionata.» Io scossi mestamente il capo. Olga riprese: «Saresti forse capace di credere che anche io...» «Oh, ma perché?» dissi io, e mi sentii per lei diventar rossa fino alla radice dei capelli. Anch'ella si fece di brace. «Perché allora capirai bene, non sarei mai io che ti aiuterei a riconquistarlo.» Io risi e le baciai la guancia delicata. «Non importa, io non sono che la moglie, vero? Tu lo fai come si fanno degli esperimenti in corpore vili.» Ella arrossì, sorrise e mi baciò. «Povera Maria, sei così giovane. Ti vorrei felice», disse, e sentii che diceva il vero. «Dunque, tu dicevi che per riconquistarlo...» Ella rimase pensierosa. «Vi sono tanti metodi. Hai provato ad essere molto affettuosa?» «Oh sì», risposi. «E lui si è seccato. Hai provato ad essere dignitosa e indifferente?» «Oh sì». «E lui non se n'è accorto. Hai provato ad essere isterica?» Esitai. «Credo di sì», dissi finalmente. «Ma spiegati meglio. Vedi, con certi uomini, quelli che detestano la donna sana e normale, l'isterismo riesce benissimo. Naturalmente bisogna avere l'isterismo estetico, conservare la linea plastica.» E Olga schizzò un gesto vago da pittore col pollice nell'aria. «Per esempio, tu devi inondarti di profumi, profumi rari e strani, poi devi cadere in deliquio ogni volta che vedi, diciamo, certi colori, certe tinte.» «Oh, che idea folle!» dissi io. «Ma no, ma anzi, è assai moderno, è assai piccante il cadere in svenimento tutte le volte che vedi, per esempio, del mauve, del malva.» «Ma, e se non ne vedo?» «Ah, oh, come sei stolta! Devi vederlo! Fatti mandare da un negozio 10 metri di seta mauve, apri il pacco davanti a lui, poi cadi. Bada di cadere in una bella posa stilizzata, così.» E Olga illustrò. «Ma mi sembra ridicolo», dissi io. Olga si offese. «Sta bene», disse, e fece per andarsene. Oh no, no, ti prego, non abbandonarmi, implorai. Suggeriscimi piuttosto qualche altra cosa. Olga si ammansì, dopo breve riflessione riprese: Hai provato ad essere un raggio di sole? Io mi impazientii. Cosa vuol dire essere un raggio di sole? Mi pare che sei proclive alle frasi fatte. Olga stavolta non si offese. Mi spiegò che per essere un raggio di sole nella vita di un uomo bisogna apparirgli innanzi gaia, ridente, luminosa, tutte le ore del giorno. Vestiti sempre di chiaro, metti un nastro nei capelli, quando odi il suo passo corrigli incontro e cingilo delle tue braccia, quando se ne va gettagli dalla finestra un fiore, quando è cupo o taciturno prendi la tua chitarra e canta. Ah, oh, sai bene che non suono la chitarra. Ribattei. Non importa, è il canto soprattutto che è efficace. Insomma, tutta l'atmosfera deve essere impregnata di gaiezza inconscia. Egli deve vivere come in un turbine di raggi. Va bene, proverò, dissi io poco convinta. E provai. Mi vestii di chiaro e misi un nastro nei capelli. Quando udii il suo passo, gli corsi incontro e lo cinsi delle mie braccia. Cosa c'è? Disse lui. Cos'hai in testa? Sembri una kellerina. Fui. Per quanto mi era possibile, un turbine di raggi, e quando lo vidi cupo e taciturno, e ciò accadde quasi subito, pensai che era giunto il momento di cantare. Sedetti al pianoforte. Ho una bella voce, forte, sebbene non molto intonata. Alla seconda battuta Vasili si alzò, prese il cappello e uscì. Io gli gettai dalla finestra un fiore. Egli non tornò a casa per 3 giorni. 8. Discorrendone con la Kralberg, ella mi disse: Già, è una cosa che qualche volta riesce e qualche volta no. Non tutti gli uomini sono uguali. Poi soggiunse: Ma un metodo c'è di riconquistare gli uomini, metodo vecchio ma infallibile. E sarebbe, dissi io, ingelosirli. È volgare, è rococò, procura un mondo di fastidi, ma è infallibile. Passammo in rivista tutti gli uomini possibili per suscitare la gelosia di Vasili. Non trovammo nessuno. Non ero circondata che da donne. Ma è incredibile, disse Olga, squadrandomi da capo a piedi, che non si trovi qualcuno che si presti. Io scossi amaramente il capo. Nessuno al mondo, cominciai. Olga mi afferrò il polso. Taci! Ho un'idea. Prenderemo qualcuno che non è più al mondo. Prenderemo un morto, sarà più spiccio. Già in una commedia che ha fatto fiasco qui in Italia, qualche anno fa, c'era un'idea consimile. A te basta un morto. Possibilmente giovane, possibilmente recente, possibilmente suicida. Ma cosa me ne faccio ad un morto? Chiesi rabbrividendo. Ma diremo che è morto per te, gridò Olga. Che si è ucciso per te. Ci faremo mandare un telegramma da qualcuno in Russia a cui diremo di telegrafarti. Muoio per te, mi uccido, addio. Firmato con un nome qualunque. Del resto, se preferisci, basta anche un nome di fantasia, così resta eliminato il cadavere. Preferisco, dissi io, ma non vedo. Cosa non vedi? Non vedi Vasili di fronte alla notizia che un uomo si è ucciso per te? Non vedi l'attiranza nuova, strana, irresistibile che eserciterai su di lui? Non sai quale prodigioso fascino emani dalla donna fatale, dalla femme à catastrophe? Va bene, dissi io alquanto incorata, facciamo pure mandare il telegramma. Passammo tutto il pomeriggio a compilarlo. E 3 giorni dopo Vasili, con un telegramma in mano, entrava nel salotto dove Olga ed io prendevamo il tè. Era terreo in volto. Sai, sussurrò Olga dandomi un pizzicotto. Eccoci. Mura, disse Vasili, succede una cosa orribile, orribile. E le sue labbra bianche si muovevano e non mandavano suono. Si è ucciso. Non poté continuare, ruppe in singulti. Io balzai in piedi. Chi? Chi? Olga volle mettere subito le cose a posto. Volgendosi a me con una strizzatina d'occhio, mi afferrò le mani. Ah, ecco lui che t'amava! Esclamò. Tu temevi ciò? Cosa? Cosa? Ruggì Vasili, afferrandola per un braccio e spingendola brutalmente all'indietro. Poi mi prese al corpetto e, scotendomi, urlò. Tu sapevi? Tu temevi? Parla, parla! Io tremavo, terrorizzata, afona, udivo Olga, futile ed esterrefatta, che diceva: Ma è una cosa che può capitare a tutti, non vorrete mica ucciderla perciò. Ma Vasili mi soffiava sul viso il suo alito acre ed infuocato. Mio fratello! Ti amava! Tuo fratello? Tuo fratello, il piccolo Pietro, balbettai. Sì, Pietro! ruggì Vassili. Mio fratello! Cosa ne sapevi tu? Ma nulla, nulla, te lo giuro! Gemetti. Ed Olga, comprendendo finalmente che si trattava di una tragedia reale e non della nostra preconcertata commedia, si precipitò. Vasili, vi sbagliate! Non ne sa nulla, è stato un malinteso! Credevamo di farvi una burla! Continuò a parlare agitata ed incoerente. Vasili guardava dall'una all'altra, scrutando i nostri volti, non ascoltando né comprendendo che per metà, e finalmente parve convincersi. E si abbandonò sul divano, singhiozzando. Il telegramma gli cadde dalle mani. Olga lo raccattò e lo lesse, poi me lo porse. Pietro si è impiccato stanotte. Vieni subito. Tarnowski. Partimmo per Kiev, la sera stessa. Per tutto il viaggio Vasili non parlò ed io pensavo a mio cognato Pietro, non al pallido adolescente già intossicato di assenzio e di donne che avevo lasciato qualche mese fa a Kiev. Ma Pietro bambino, vestito di velluto nero col colletto di pizzo, che a me fanciulla veniva incontro grave, trotterellando con le gambette nude sul viale della Villa Tarnowski, e mi baciava e poi ritrotterellava via, comico e sollecito, con le gambette nude, con la nuca bionda e grassa sotto il cappello alla marinara. Ricordo bene quel cappello alla marinara. Il nastro nero della calotta portava tra due ancore la scritta implacabile. E sotto quell'efferata parola tondeggiava il visetto mite e attonito del piccolo Pietro. Pietro aveva sempre freddo alle gambe. Lo si educava all'inglese, gambe nude anche nel cuore dell'inverno. Si vedevano rosseggiare da lontano su uno sfondo di neve le gambe freddolose del piccolo Pietro. Talvolta egli mi diceva, stropicciandosele, avrei preferito che Dio mi avesse fatto di pelo piuttosto che così di cuoio, soggiungeva un po' incerto. E altre volte diceva: Non mi piace essere al mondo. Non è che vorrei morire, ma vorrei non aver mai cominciato. Ed ora il piccolo Pietro aveva finito. Il piccolo Pietro giaceva, solenne e magnifico, nella camera ardente dove prima di lui avevano giaciuto solenni e magnifici i suoi antenati defunti. Implacabile, davvero, alle lacrime della madre e del padre, ora non si inteneriva più. La sua fronte sdegnosa era di marmo, le sue ciglia bionde non battevano sugli spenti occhi riversi. A pensarlo così, avevo paura di lui e mi pareva strano l'aver paura del piccolo Pietro. Ma passata la frontiera russa, un pensiero che mi riempiva di gioia ardente, mi si fissò nel cervello: mio figlio, avrei riveduto mio figlio. Certo, tutti i parenti sarebbero presso i Tarnowski, quindi anche il mio piccolo Tioka. E la visione di quel bambino vivo discacciava il ricordo del tragico fanciullo morto. E più il treno correva verso Kiev, e più cresceva la mia febbre di contentezza. Domani vi sarebbero stati i funerali di Pietro, ma stasera avrei tenuto tra le braccia Tioka. Vidi Vasili che mi guardava con occhio truce. È un pezzo che ti osservo, disse. Tu ridi? Ridi così alla morte? Ah, mi sembri un vampiro. Allora piansi. Piansi perché Vasili non si ricordava di Tioka. Ma in fondo al mio cuore cantava ancora, come una piccola fontana, la gioia. Così entrai con singulti di letizia nella luttuosa casa Tarnowski. Così corsi nella stanza Tassa, la fatale stanza in cui Pietro si era dato la morte e in cui avevano messo la culla del mio bambino. Così, mentre gli altri a ginocchi nella fosca stanza mortuaria pregavano piangendo, io correvo nel soleggiato giardino, stringendo tra le braccia la mia creatura, e mi nascondevo con lui e ridevo, baciandogli i grandi occhi di sogno e la piccola bocca di fiore.